Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Grasse magre, alte, basse, singolo, in coppia, casalinghe o in carriera. Oggi parliamo di donne. Di donne, aiutatemi a dire, normali. Ma di questi tempi viene da chiedersi chi sono, come vivono, cosa fanno. E pensavo, sapendo, credendo di essere una donna normale, quanto costa accettarsi per quello che si è? Ovvero accettare di essere se stesse, senza sognare di essere trasportati in un altro corpo, in un altro amore, in un'altra vita. Che cosa vogliono le donne dagli uomini, dal matrimonio, dai figli, dal lavoro? Da se stesse. Le donne normali, intendo. Le donne di oggi che vorrebbero esprimersi e realizzarsi negli affetti, ma anche nel mondo, vorrebbero cercare la felicità dentro e fuori casa. Ci vuole coraggio di questi tempi a essere normali, a riconoscere come normali i propri desideri, le proprie aspirazioni. Ci vuole coraggio, ma non c'è bisogno di essere speciali. O forse siamo tutte speciali quando ci intestiamo la speranza. Elogio della donna normale, il libro appena uscito per Mondadori di Irene Bernardini, psicologa e psicoterapeuta, che oggi è qui in studio con noi. Ciao Irene, grazie. Buongiorno, buongiorno. Sono molto contenta. Anch'io. E con noi c'è Alberto Pellai, che come me ha letto il libro, che non voleva perdersi questa puntata in cui parleremo di donne. No, lo considero un vero privilegio essere oggi con te, Nicoletta. Buongiorno. Anche se buongiorno. Tu, Irene, dici espressamente nel tuo libro che è solo di noi donne che ti vuoi occupare. Insomma, l'altro sesso, che spesso no, origina in noi tanti problemi, lo lasciamo un po' sullo sfondo. Sì, ho scelto di lasciarlo sullo sfondo. Bene, Alberto, leggendo il libro ti sei sentito lasciato sullo sfondo? Non mi sono sentito assolutamente giudicato e credo che il libro sia stato per me un bel paio di occhiali per vedere non tanto le donne in un altro modo, ma con molti pensieri in più. Allora, Irene, prima di farne un elogio, intanto ricordo il nostro numero verde 800 24 00 24, i messaggi 349 238 6666, scriveteci anche su Facebook. Io, prima di farne un elogio, cercherei di capire chi è la donna normale. Una donna che incarni praticamente la parola femminile a tutto tondo, quindi sia nel lavoro che nel privato. Penso che nella società odierna venga utilizzata principalmente come strumento per la distrazione. Infatti viene abbellita soltanto per il fatto di piacere, ma non tanto a se stessa ma agli altri, quindi è più improntato verso diventare un oggetto. La donna normale adesso è la donna che lavora e riesce ad avere un'indipendenza economica e anche a livello emotivo riesce anche a stare da sola, a mantenersi da sola e a crearsi una famiglia anche da soli. In questi momenti è importante nel nuovo millennio anche questo. E queste sono le caratteristiche principali della donna normale, secondo me. Secondo me una donna normale è una donna che oggi riesce a mantenere la sua indipendenza all'interno dei campi in cui opera, ma allo stesso tempo riesce a dedicarsi alla famiglia e ai suoi affetti più cari. È una donna normale, è una donna che comunque non si fa, cioè è sempre comunque non si fa mai mettere le piedi sopra, riesce sempre ad essere se stessa, non si fa mai plagiare dall'uomo e neanche mettersi i piedi sopra in qualsiasi ambito, sia in amore che comunque nel lavoro. Anche a voi faccio la stessa domanda, datemi la vostra definizione di donna normale, non importa che voi siate uomini o donne, mandatemela però via sms al 349 238 6666, mettete anche il vostro numero, questo è importante per darci modo di contattarvi, nel caso Irene Bernardini giudichi interessante la vostra definizione, una o uno di voi potrà ricevere a casa oggi, grazie alla collaborazione IBS, il libro Elogio della donna normale di cui parliamo insieme proprio a Irene Bernardini. Irene, oggi proprio sfoglieremo insieme il tuo libro e io anche invito le mie ascoltatrici a chiamarci in diretta per raccontarci su quali fronti, pur essendo normali, sentono di non riuscire ad aderire a quella normalità che tante volte ci viene imposta o proposta come tale. Insomma, tante volte noi ci sentiamo normali, ma ci sentiamo un po' fuori norma, facciamo fatica. Quali sono, in quale aree noi facciamo più fatica? Irene. Ma le aree che acutamente già sono emerse da queste testimonianze, in fondo, no? Si è parlato di coniugare il mondo degli affetti con il lavoro, l'indipendenza, con la possibilità appunto invece di amare, essere amati e di cercare senso nella vita anche in questo. Sembra tutto banale, appunto, invece... per fare questo, per tenere insieme questi obiettivi, queste speranze, questi sogni, in realtà tocca fare delle grandi acrobazie, perché è esperienza credo comune che, per esempio, mantenere il proprio posto di lavoro quando si hanno dei figli, magari mantenerlo nel senso di mantenere la stessa slancio di avanzamento, di arricchimento. Molte donne si lamentano del fatto che sì, la legge le garantisce, tornano al lavoro, ma come dire, con delle mansioni scadute, con degli arretramenti veri e propri. Così come appunto fare famiglia e però coltivare, come dire, la dimensione della coppia. Si chiede a una donna di essere, come dire, una perfetta donna di casa, ma anche aspettare, come un po' nei film americani, il marito con un cocktail avendo prima steso la biancheria, tenendo le buone relazioni con amici e colleghi, con la famiglia d'origine. Cioè sembrano, come dire, tutte cose di ordinaria amministrazione, farle, no? Poi spesso è un'acrobazia, e questo sentimento di inadeguatezza è molto diffuso, no? Alberto, ma sì, io quante ripenso... cose ci fate fare, pretendete da noi, no? Ripenso comunque a qualche donna che magari vedo anch'io come terapeuta, con cui sto in colloquio, e credo che, se penso a tre forse delle dimensioni così faticose: da una parte aver immaginato che esiste un amore troppo ideale, da considerare sempre poco valido l'amore reale che hanno attorno, che è un tema molto importante anche nel libro di Irene Bernardini. Seconda dimensione faticosa, secondo me, è pensare che si può vivere una vita da sogno, e tutta questa cosa qua è entrata dentro spesso all'immaginario delle donne in modo completamente artificiale. E spesso la cosa che mi fa tristezza è voler avere un corpo da favola. Ci sono donne di una bellezza estrema che hanno proprio un corpo reale, eppure che sono costantemente in guerra col proprio corpo, e quindi alla fine entrano in guerra anche con se stesse, perché sognano un altro corpo che apparentemente le renderà differenti da come sono. Invece credo che la conquista vada proprio nella direzione di imparare ad essere se stessa, essere consapevoli di chi si è. Irene, arrivano già diversi messaggi con le definizioni di donna normale. Io vi chiedo però di mettermi anche il vostro numero di cellulare, dove potete essere in qualche modo contattati. Ma Max da Como mi scrive: cara Nicoletta, puoi chiedere per favore alla tua gradita ospite cosa intende invece lei per donna anormale? Perché chiedere cosa si intende per donna normale sottintende che ve ne sia una opposta. Ma rischio di dare una risposta un po' paradossale, ma forse anzi è meglio. Va bene. Dentro la logica di questo mio libretto, la donna anormale è quella che, per esempio, rinuncia a realizzarsi, a realizzare per esempio quello che ha studiato, i propri talenti in un lavoro dove si senta, come dire, riconosciuta, e molli tutto dicendo: beh, tanto c'è lui, ci pensa lui, mi mantiene lui, io penso ai figli e alla casa. In questo senso, per me lì c'è una anormalità. Anormale è viceversa la persona che accetta la logica un po' feroce del mercato del lavoro, delle carriere, e rinuncia ai propri affetti per perseguire quella meta lì. Cioè rinuncia a contaminare, a unire, a mettere insieme le cose, a fare questa cosa che è proprio tipicamente femminile. Una donna vuole mischiare, vuole unire, vuole integrare, vuole il pane e le rose, come dico anche nel libro. Ecco, anormale, costretta alla normalità, spesso oggi è una donna che deve scegliere nel senso della rinuncia, no? Ecco, questo per me è anormale. Normale è una donna che vorrebbe mettere insieme un po' tutto. Vorrebbe realizzare compatibilmente, armonizzare più che unire, no? Ecco, questo per me è normale. Per questo che una donna normale è speciale, e ci vuole coraggio a essere normale. Tanto, posso aggiungere? Sì, prego. Angelo da Bergamo, 800 24 00 24. Buongiorno Angelo, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie. La sentiamo un po' malino. Adesso mi sente meglio? Un pochino. Ecco, deve abbassare la radio. Angelo, vada. Appunto, il Bluetooth. La richiamiamo, Angelo. Intanto che dalla regia richiamano Angelo, vi leggo qualche messaggio. Ci scrive Sabrina. Donna normale, la donna appunto con i propri pro e contro. Né eccessivamente donna in carriera, né troppo casalinga. Un po' di normalità ci vorrebbe. Oscar ci scrive, sono molto fortunato, 30 anni con una moglie normale. La donna normale è colei che percepisce e accetta i propri difetti, ci scrive Nico, bravo, ci manda anche il suo cellulare. Sono normali, forse eccezionali, e quelle che non urlano per dirti quello che non va. Prenderei un altro spunto e lo sentiamo insieme perché ci dà altre idee. Perché bisogna soffrire in questo modo? Rinunciare a suonare il pianoforte, sopportare di essere tradite. Ma dov'è la ragione di tutto questo? Non c'è! Ah, sì che c'è! No, non c'è! Noi siamo delle creature primitive, questa è la ragione. Abitiamo ancora nelle caverne. Noi non amiamo le cose semplici, no, noi amiamo le cose contorte, complicate, come il tormento che Gabriella dà a Sandro. Oh! Non possiamo diventare moderne, ha ragione Claudia. Se diventiamo moderne smettiamo di essere donne. Noi godiamo a vedere il nostro corpo gonfio come un pallone, a rinunciare al talento, alla libertà. Noi vogliamo essere legate a qualcuno anche se ci strozza. Vogliamo essere di qualcun altro e non c'è fine, non c'è rimedio. A chi toccava dare le carte? Irene, a te un commento a caldo. Eh beh, è grandiosa. Lei è magnifica. Lei è magnifica, lei è grandiosa. Sì, è certo. Una donna normale, lei? Sì, se cogliamo la disperazione isterica di questa breve tranche, allora è normale, perché questo è un problema che più o meno drammaticamente vivono tante donne, quello di cogliere, di sentire che bisogna tornare al proprio corpo. Non so se avete in mente questo bellissimo libro di Michela Marzano che si chiama appunto Sii bella e stai zitta, no, è una citazione da Baudelaire peraltro, sì. Un signore che evidentemente aveva le idee chiare sulle donne, e questo sentirsi come dire respinte a ridosso del corpo, dell'accettazione, della primitività, corpo, natura, questa è ancora forte, questa ingiunzione, no? È ancora forte e si fa fatica invece a riconoscere che si vuole magari andare anche un po' fuori da quel corpo, il corpo, la casa, la natura, quel tipo di femminile. Questo è un tormento, soprattutto in un paese come il nostro dove un po' stiamo scivolando indietro da questo punto di vista. Forse abbiamo di nuovo Angelo. Angelo? Sì, ci sono. Eccola. Ho eliminato un Bluetooth. Allora, il mio intervento è molto semplice. Mm. Io sono a contatto con le donne, perché faccio il commerciante, sì, tutto il giorno. Mm. E le posso garantire che la vera donna, la normale, non esiste più. Perché? Nel senso che tutte le donne sono inzaffarate e hanno sempre un secondo fine o un primo fine che scavalca e prevarica tutto. Mm. Nel senso che non c'è più la classica per esempio la mamma alla Cesaroni che si alza la mattina a preparare la colazione per tutti. Certo, nessuno vorrebbe una donna così, però se ci fosse nessuno la butterebbe via. Alberto, stavo pensando che proprio perché proprio oggi ho finito di leggere il libro di Irene Bernardini, ho letto anche l'ultimo capitolo e riflettendo su quello che dice Angelo, a me piace, io in casa mia funziona così, io mi alzo prima al mattino e penso alla colazione dei due bambini della scuola elementare e li porto io, poi si alza Barbara, abbiamo quattro figli, e pensa invece ai due bambini della scuola materna. E secondo me poter fare questa cosa non è non avere più a fianco la donna che è stata la nostra mamma o la nostra nonna, ma essere un po' stati educati anche da loro a prenderci cose della vita che ci dicevano forse non essere tanto adatte a noi, tanto belle per noi, e che invece sono bellissime nel momento in cui le facciamo diventare parte di noi. In questo credo che ce l'hanno un po' insegnato le nostre compagne, però a questo punto chiediamo all'autrice. Irene, beh, io abbiamo insegnato qualche cosa. Quando, se tu appunto hai scorso soprattutto l'ultimo capitolo, io sono una fan esagitata del, per esempio dei papà di oggi, che non sono tutti, ma sono, cominciano a essere in buon numero, questi che ci provano gusto, non lo fanno, no? Ci sono papà che dicono ti aiuto, sì, con i bambini, ti aiuto, che è una strana espressione, no? Inquietante, come mi aiuti, sono figli tuoi. E ci sono invece questi papà che non aiutano nessuno, ci provano gusto, sì, scoprono, fanno quella dimensione che è anche quella dell'accudimento, dell'affiancamento nella cura dei bambini, che regala delle visioni, che regala intensità, che regala intimità. E quei papà lì che non fanno i mammi, perché i mammi sono veramente terribile, una caricatura odiosa, ma sono più maschili che mai, perché si autonomizzano, si rendono indipendenti da questo universo femminile materno che spadroneggia solitario, no, sulla vita dei figli. No, si acchiappano i loro spazi, i loro territori. Io li trovo commoventi, li trovo fantastici, dovrebbero mettersi in testa, diciamo, a un percorso di evoluzione del maschile. Senti Irene, io vorrei commentare un tuo speciale biglietto da visita. Dottoressa Irene Bernardini, psicologa, psicoterapeuta, specialista in sarcasmo addolorato, trattamento da uomo a uomo per signore e signorine. Sì, sì, è un po' il tono anche del libro. Strada facendo, io mi sono accorta che il registro, il tono più utile che mi veniva da spendere sia nel mio lavoro clinico che in questa fantastica esperienza della rubrica di Vanity Fair, insomma, era un tono non particolarmente accondiscendente, ma il tono che forse uso con le mie amiche o con mia figlia, insomma, per cui se una cosa mi inquieta e mi fa arrabbiare, io lo dico, spendo quell'irritazione, quello sgomento a favore della persona che ho davanti. Per cui se c'è bisogno di strapazzare, strapazzo, se c'è bisogno di scandalizzarmi, mi scandalizzo, cioè non credo, forse perché l'ho, come dire, attraversato con grande pienezza, una dimensione di sorellanza, di complicità collusiva, che bisogna sempre darsi ragione tra donne. Io penso che lo scandalo di un'altra donna possa essere molto utile, molto, molto opportuno, magari usando, sì, io parlo di sarcasmo addolorato, è un'espressione coniata da una deliziosa signora che mi scrisse una lettera alla rubrica di Vanity Fair dicendo che lo apprezzava, e io l'ho adottato, quindi anche usando l'ironia, usando un po' la presa in giro, no? Cercando che il tramite sia sempre quello dell'affetto e del grande rispetto, però non è necessario fra donne, insomma, darsi sempre ragione, scusarsi sempre, così come appunto io sento, io non ce l'ho con le veline poverine che vanno a fare quel concorso e a girare in mutande subito dopo il TG, io sì invece me la prendo, non capisco perché non devo prendermela con una ragazza che avrebbe altre possibilità. Se mi capita le dico, ma ragazza mia, ma cosa fai? Datti una svegliata. Ma è una cosa stupida. Allora, un po' di sarcasmo addolorato lo utilizzeremo anche così nel corso della trasmissione. Io credo che ci voglia. Adesso è tempo di andare a sentire i mercati, il meteo e poi di nuovo insieme. Continuate a scriverci la vostra definizione al 349-238-6666. Mettete anche il vostro numero per essere ricontattati. Se volete intervenire, 800-24-0024. Insomma, non vedevo l'ora di tornare, perché oggi parliamo di elogio di una donna normale. Abbiamo in studio Irene Bernardini e il sottotitolo è Storie di donne e dei loro spericolati sogni di tutti i giorni. Io devo dire che me lo sono letto proprio di pancia questo libro, non tanto per preparare la trasmissione, ma mi ha veramente emozionato, mosso qualcosa. E c'è un aspetto tra gli altri che mi ha molto colpito e su cui tu usi proprio il tuo sarcasmo addolorato. Tu spari a zero su quel bisogno di emozioni che molte donne vogliono sperimentare, chiamiamole farfalle nello stomaco, tanto per che a volte però aiutano anche a rendere un pochino più, no, con appeal magari una quotidianità grigia. Dimmi se ho capito bene, perché il sospetto mi è nato da questo passaggio. L'importante è emozionarsi. Io non ce l'ho con le emozioni, ma con l'emozionalismo. Con la ricerca critica e compulsiva di brividi a buon mercato. Piccoli brividi, peraltro. Non si chiamava così una collana di libri gialli per bambini? Sentimenti in miniatura. Sentimenti nani, contratti e ridotti, come le parole negli SMS. TVTB, segue faccina. Emoticon, si chiamano le faccine degli SMS e delle email, appunto. Cose da ragazzini? A parte il fatto che per le cose da ragazzini io ho grande rispetto, quel balbettio prefabbricato è abbondantemente usato, abusato anche dai grandi o presunti tali. Surrogati volatili di sentimenti che non impegnano, non legano, non chiedono. O meglio, chiedono tutto e subito, ma per poco. Emozioni al posto dei sentimenti, nell'età dell'amore liquido. Per citare ancora Zygmunt Bauman. Irene, vogliamo fare qualche esempio così capiamo per bene di che cosa stiamo parlando? Ma facciamo proprio l'esempio classico, forse molto ricorrente, quando è quello dei racconti che io appunto ascolto, per esempio in studio. Appunto grandi emozioni via internet, no? Con tutto il rispetto, io adoro, morirei senza internet a questo punto della mia vita, però il parlare di scambi con dei perfetti sconosciuti come di amori, no? Cioè io vorrei mettermi, diceva una ragazza l'altro giorno, vorrei stare con questo ragazzo, mai visto, mai conosciuto, lo amo. Mai visto, mai sentito l'odore, mai visto lo sguardo, mai visto il modo in cui si muovono le mani. Io non ce l'ho con l'innamoramento, guai, come faremmo senza, no? È che parlare di innamoramento via, come dire, da macchinetta del caffè, perché anche lì quante volte mi sento raccontare di queste passioni, di quello della porta accanto, senza neanche la fatica di andare almeno al piano di sopra, al piano di sotto, basta quella gigioneria da gratis, da quattro soldi, non costa fatica, questo accende sogni un po' già dimessi in partenza. Ecco, questo mi inquieta un pochino, bisticciamo con le signore che mi scrivono o che vedo in studio, questa dimensione ridotta. E poi questa idea che se non sei innamorato, se non sei emozionato, non sei nessuno, niente. Perché siamo in un mondo di emozionati e lei, se tu vedi, forse qualche volta anche tu la televisione, non sei sempre solo qua, saprai bene, no, che è tutto un questo mi ha emozionato, quell'altro non mi ha emozionato, questa è la parola, non è più mi piace, mi interessa, ma ci mi credo. Emoziona o non mi emoziona, brividetti, rumore. Tanto rumore. Per nulla. Più delle volte. 800 24 00 24. Vi sentite donne normali? E soprattutto, che significato ha per voi questo aggettivo? Se qualcuno dice di voi che siete una donna normale, per voi è un complimento oppure vi sentite in qualche modo sminuito? Stiamo leggendo alcune definizioni, devo dire che ne sono arrivate tantissime, possiamo fare un secondo libro, sceglieremo quella che tra tutte piace di più, tocca le corde, non le emozioni, Irene no. Bernardini. Ecco, altre ne aspettiamo, dateci la vostra definizione di donna normale. E grazie alla collaborazione con IBS, l'ascoltatore, l'ascoltatrice che darà la definizione più bella, secondo Irene Bernardini, riceverà a casa elogio della donna normale. Mandateci un SMS col vostro numero di cellulare e magari sarete proprio quello che riceverà a casa il libro di Irene Bernardini. In collaborazione con IBS.it. Io non potevo non farvi ascoltare un pezzo di Geppi Cucciari, che per me è illuminante, e voglio sentirlo con voi perché sicuramente ci farà fare qualche risata, però andiamo. Poi tra l'altro noi ci lamentiamo sempre, ma poi in realtà quello che vogliamo veramente, noi lo sappiamo, ma voi lo vorreste davvero un uomo che è sempre presente, sempre vicino, che fate l'amore, vi fa le coccole, tu puoi venire un attimino in bagno, cipriarti il naso, torni in camera e lui sta già lucidando gli argenti? E poi domani mattina, dai, amore, dai, sveglia presto che andiamo a comprare le scarpe. E dai, dopo pranzo chiama tutte le tue amiche che guardiamo tutti quanti insieme 100 vetrine. Voi lo vorreste davvero un uomo così? Perché poi, e vi lamentate, vedete, così non lo vogliamo, in quell'altro modo neppure, e alla fine siamo sempre così, belle come il sole, sole come me, che devo dire qualche volta nel pianerottolo del mio cuore sento dei rumori, vado allo spioncino a guardare, ma gente che sale o gente che scende, e comunque sono maschi qualsiasi, che noi amiche non interessano, perché noi vogliamo un uomo che è più difficile da trovare. E noi abbiamo un uomo, abbiamo, così, l'abbiamo chiamato a questo punto della trasmissione, che devo dire a me piace molto perché fa una cosa molto bella, il mio giornale preferito, che è Vanity. E in linea con noi infatti abbiamo il direttore Luca Dini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Non posso dirlo a Irene perché sennò mi cazia, ma devo dire che mi emoziona sempre sentire Luca Dini, perché per me è uno che insomma... Ma chi ti dice che non mi emozioni anch'io? Ah, va bene, però tu lo conosci, anni. Almeno l'hai visto. Sì, l'ho anche toccato. L'hai anche toccato, sai come gesticola. Purtroppo mi ha visto, sì. Come purtroppo? Beh, è meglio sentirmi e basta. Senti, Luca, senta direttore, si dice così. No, senti Luca, hai sentito la Geppi Cucciari con l'uomo che... Che cosa dici di queste donne che insomma gli uomini li vogliono sempre in modo diverso? Beh, credo che sia la bellezza delle donne di oggi, che hanno anche una, c'è una contraddittorietà nelle loro richieste rispetto alla figura maschile. Trovo sia molto bello, è un segno di un passaggio, di un cambiamento, di un'evoluzione. Vorrei anch'io capire dove ci porterà, però è evidente che c'è confusione sia negli uomini che nelle donne su quello che dobbiamo essere, dovremmo essere. Il Vanity è letto anche dagli uomini, anche la pagina di Irene, io so che è sfogliata e letta con interesse anche dall'altro sesso. Luca, che cosa ci trovano gli uomini nella posta di Irene? Perché lei riesce a parlare così, no? Con sarcasmo addolorato alle donne e toccare anche gli uomini? Beh, perché le donne sanno parlare, gli uomini molto meno, e io credo che il bello di un giornale che funziona è saper parlare come le donne, o provare a parlare come le donne, o toccare quel modo di comunicazione che appartiene di più purtroppo al mondo femminile che a quello maschile. Io credo sia per questo, Irene è l'esempio perfetto, cioè lei ha la capacità di far comunicare questi atomi che siamo. Io non credo molto alla normalità, secondo me la normalità è l'unicità e l'eccezionalità di ognuno di noi e di voi, però le donne sanno far comunicare queste diversità molto più che gli uomini. Io credo che gli uomini che leggono la pagina di Irene e altre pagine di Vanity Fair ci trovano questo. Andiamo a Fabio, che ci chiama da Prato. Fabio, buongiorno. Buongiorno a tutti, è bella la definizione del direttore. Vabbè, io ne avrei non a caso. No, certo. Fabio, ne ha una anche lei? Sì, per me la semplicità in una donna è il primo elemento che gli dà la normalità. Poi le sensibilità di una donna certamente travalicano quelle che sono anche le più tipiche di un uomo, quindi certamente la donna semplice, la donna che riesce a fare più dell'uomo, riesce ad essere più concreta, riesce a tenere famiglia, ad avere un compagno, un marito, un amante anche, certo che sì, però ecco, la donna viene in qualche modo messa a dura prova da una società che è comunque maschilista, vediamo anche nel governo, nella politica, nei quotidiani anche ci sono delle direttrici bravissime, però vediamo in televisione, sentiamo la radio, l'aggressione di queste forze contro queste donne che non riescono a realizzarsi perché sono messe in minoranza. Io sono convinto che la donna abbia comunque molto da fare per dare all'uomo e alla società contemporanea un diverso aspetto di quella che è la vita di tutti i giorni. Una donna può essere sicuramente un dirigente d'azienda, una buona madre di famiglia, e non per questo si deve annientare o rinunciare alle sue cose. Purtroppo la nostra società non è pronta e non fa niente per questo, quindi le donne usi anche un po', quindi va bene anche un po' di sarcasmo addolorato. Senta Fabio, io devo andare, poi passo subito la parola a Irene, devo andare a sentire le informazioni sul traffico. E siamo tornati insieme. Irene, volevamo commentare questo intervento del nostro ascoltatore, che è stato particolarmente ricco, no? Sì, miele, come si dice, per le mie orecchie. Fabio si chiama quel signore. Sì, l'ho apprezzato tantissimo, perché non c'è nessun paternalismo. Cioè, quello che ho sentito è quello che mi piace sentire, cioè un uomo che capisce che a lasciare le donne a margine ci perde anche lui, ci perde il mondo, ci perde la società, cioè una componente importante, un punto di vista, una sensibilità che a includerla ci guadagnano tutti. Questo ho sentito nell'intervento di questo signore, che è un po' anche la stessa, diciamo, ordine di pensiere che mi fa... che mi spiega, spero mi spieghi il perché alcuni uomini, no, non pochissimi, insomma, mi scrivono sulla pagina di Vanity Fair. Io penso che sia, mi piace pensare che sia perché, un po' come nel libro, c'è molto orgoglio femminile, c'è molta voglia di confrontarsi al femminile, ma non c'è inimicizia, non c'è ostilità, non c'è riserva ostile nei confronti degli uomini. Io credo che questo loro lo sentano, per quello mi scrivono. E poi perché sentono che un modo franco di comunicare, non il chiacchiericcio, come dire, femminile complice un po', questo non esclude, questo non allontana. Io credo sia per questo. E poi penso in generale che Vanity Fair sia un giornale, come dire, che dove dialogano le due sensibilità, non, pur essendoci molto orgoglio femminile, diciamo così. Luca? Sì. È così? È assolutamente così. Avete trovato la formula? No, l'abbiamo trovata insieme, l'ha trovata Irene, l'hanno trovata le persone che lavorano in squadra. Beh, se posso dire, c'è stato, nei primi interventi si parlava di indipendenza, autonomia, queste sono parole preziosissime, sono quelle con la maiuscola parlando di donne. Devo dire che l'esperienza mia con Vanity Fair è stata proprio questa, cioè loro mi hanno offerto un'opportunità e mi hanno permesso di cercare una certa voce, senza mai interferire, se non offrirmi e garantirmi una guida saggia di professionisti. Io di questo lo sono gratissima. Senti Luca, quanti complimenti ti stiamo facendo? Troppi. Voglio dire, non sei neanche più un direttore normale, Alberto. Guarda, io pensavo alla pagina di Irene Bernardini su Vanity, perché la leggo io? Io credo che mi piace molto perché sono stato cresciuto probabilmente da una generazione di donne che volevano poco. Ho imparato anche, credo, attraverso questo genere di letture a capire che è bello vivere con donne che vogliono tanto, e non mi sento minacciato dal lavoro che fa Irene con le sue lettrici, perché lei è molto onesta con loro e gli insegna a non fare il più grosso errore che spesso fanno gli uomini, cioè a volere tutto. Maria Dolores dalla provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Niente, nella nostra normalità. Intanto saluto tutti e volevo solo dire, signora, siccome ho sentito prima un intervento in merito a una domanda che era stata posta da un ragazzo alla signora che avete ospite, in un certo qual modo nella risposta di questa signora mi sono sentita un po', tra virgolette, identificata, anche se poi però in realtà, signora, non condivido comunque la risposta che ha dato la signora, sì, perché penso la sua possa essere un'opinione personale, insomma. Mi fa capire esattamente punto, sì, che cosa, perché mi è difficile. Il ragazzo ha chiesto alla vostra ospite il contrario della donna normale, quindi la donna normale. Sì. La signora gentilmente ha risposto che la donna normale è la donna che rinuncia al proprio lavoro e che pensa comunque che può essere mantenuta dal marito, e lei può accudire i figli e così. In pratica, signora, io sono un'ex piccola imprenditrice, insomma, la quale ha rinunciato al proprio lavoro, alla propria ditta, per poter accudire le bimbe, insomma, visto che sono arrivate due bimbe piccoline. Però non mi sento assolutamente anormale, insomma. E poi chiedo scusa per l'emozione. No, ma ha ragione. Questa signora, io mi sono espressa male. Quello che volevo dire, signora, è la differenza tra una parola come rinuncia e scelta. Allora, a me piace pensare che una donna possa scegliere la famiglia al posto del lavoro, possa scegliere il lavoro al posto della famiglia, possa decidere di fare i figli come decidere di non farli, e vale uguale. No, quasi mai è una scelta, molto spesso è una rinuncia. Laddove c'è una scelta autonoma, consapevole, e lì c'è, come dire, è il trionfo di quello che io auspico per le donne, la possibilità di scegliere. Laddove invece c'è la rinuncia, ecco lì c'è il mio sgomento, e mi sembra che oggi, parlo di donne anche molto giovani, spesso siano messe le ragazze e le donne in condizioni casomai di rinunciare e non di scegliere. Questa è la differenza, ci mancherebbe altro. Io non penso che valgano solo le donne che lavorano, penso che valgano a se stesse le donne che sono nella possibilità di scegliere. Questo volevo dire, mi scuso se sono stata poco chiara poco fa. Allora, intanto, tra i tanti sms con definizioni che sono arrivate, Irene ha scelto, così la commentiamo anche con Luca Dini, a cui presentiamo già la scelta, ma sentiamo se è d'accordo anche lui, la definizione che ci ha dato Franco. La donna normale è colei che apprezza, stima e preferisce l'uomo normale. Luca, tu l'avresti premiato questo sms, ti piace? Beh sì, è bellissimo, devo dire. È bellissimo perché... è questa l'espressione della famosa parità di cui ci riempiamo tanto la bocca, cioè la possibilità di pensare all'uomo come un compagno di strada assolutamente paritario e uguale. Irene, tu l'hai scelta perché? Perché in realtà è un'impresa eroica fare quella cosa lì, cioè... riuscire a stabilire un legame coltivare non l'idea di un superuomo, il vecchio mito del bastardo, quello zingaro, che ti fa soffrire, che non chiede mai. E poi quante volte mi sento dire: io ho un fidanzato tanto carino, tanto bravo, tanto buono, ci vogliamo tanto bene, però non mi dà le farfalle invece il collega accanto. E spesso mi capita, no, in queste descrizioni, sì, tanto bello, tanto buono, dico: beh, insomma, basta. Che poi, se poi aggiungi che non sporca, abbiamo la perfetta descrizione di un cocker di buon carattere. Ecco, io penso che lì ci sia una fregatura per le donne. Attenzione. No? Nel cercare questa eccezionalità e nel tenersi lì a bagno, bagnomaria, queste figure protettive, parentali. Bisogna cercare di unire, bisogna cercare di mischiare i miti. Io voglio leggervi un messaggio che è arrivato ora da Anna Maria. Sono Anna Maria, una donna normalissima, non vedente, lavoro e ho 4 figli. Aggiunge: felice. È straordinario. Questo è un messaggio straordinario e soprattutto quella aggiunta: felice. Io voglio ringraziare molto Luca Dini, a cui abbiamo fatto, è vero, un sacco di complimenti, ma veramente di cuore, perché il vostro giornale è veramente un mix che secondo me parla uomini e donne in quest'ottica, no? Come diceva l'SMS di Franco, no? La donna normale parla di una donna normale che apprezza, stima e preferisce l'uomo normale. Sono belli i verbi che sceglie: apprezza, stima e preferisce. Parole pesanti e direi che fanno la differenza. Luca Dini, grazie. Grazie a voi. È stato veramente un piacere. A presto, piacere direttore. Ciao. A presto, direttore. Ciao. Irene Bernardini, grazie per essere stata con noi. Elogio di una donna normale, e quindi teniamo duro. Alberto, noi ci sentiamo sabato. Grazie a voi, a domani. Essere e benessere.